Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. In una puntata precedente abbiamo visto come uno dei limiti della stampa 3D sia la ruvidità e irregolarità della superficie esterna. Si tratta di un problema intrinseco alle tecnologie additive, dovuto proprio al fatto che l'oggetto viene creato sovrapponendo strati di materiale uno dopo l'altro, e ciò lascia come dei gradini sulla superficie. Tanto più piccoli quanto più sottili sono gli strati depositati, e quindi quanto più si tratta di un processo di stampa di precisione, ma comunque non si ha mai una superficie liscia. In qualche caso limitato, diciamo, questo è persino un vantaggio, come abbiamo visto una superficie rugosa è utile, o può esserlo, quando si vogliono creare delle protesi, perché aiuta i tessuti biologici a fare presa sull'oggetto che viene introdotto nel corpo umano, ma insomma nella maggior parte dei casi questa rugosità è una scocciatura che obbliga a trattamenti di rifinitura di cui si farebbe volentieri a meno. Ebbene, almeno in alcuni casi, in una serie limitata di casi, tutto potrebbe diventare più semplice grazie a una tecnologia chiamata 3D Finisher, sviluppata dallo spin-off 3D Next Tech dell'Istituto di Biorobotica della Scuola Sant'Anna di Pisa, di cui abbiamo in linea uno dei fondatori, Andrea Arienti. Buonasera Arienti. Buonasera. Allora, senta Arienti, cominciamo a ricordare come si rifinisce normalmente uno di questi oggetti che vengono fuori da uno stampante 3D. Allora, come detto precedentemente, è corretto, ogni processo di stampa 3D necessita di un passaggio successivo di lavorazione superficiale. Ad oggi questo passaggio è fatto necessariamente in maniera manuale da degli operatori. In alcuni casi questo processo è completamente impossibile, in altri è molto difficoltoso. Comunque si va, per capirsi, da 8 a 24, fino addirittura a 48 ore. E come si fa? O con la lima a mano, per capirsi, no? Quando si tratta di robe artigianali. Esatto, si fa per asportazione di materiale, quindi o con lima o carte vetrate sempre più fine a mano, oppure con processi di sabbiatura o burattatura, che sono comunque che tolgono con materiale. Con delle sferette, no? Sostanzialmente. Esatto. E comunque durano, dicevamo, durano delle ore. E veniamo invece alla vostra tecnologia che, diciamolo subito, per intanto funziona su due materiali, non è che funzioni su tutti i materiali della stampa 3D. Esatto, in questo momento noi riusciamo a lavorare molto bene ABS e acetato di cellulosa, anche se stiamo facendo i primi test con il PLA e stiamo già ottenendo ottimi risultati. Il nostro dispositivo opera una finitura superficiale per mezzo di un processo chimico. Praticamente l'oggetto all'interno della camera di lavoro viene invaso e lambito in ogni suo punto da un'atmosfera gassosa a base di solventi organici che riesce, toccando appunto ogni punto della superficie, a renderlo perfettamente liscio e omogeneo. È un po' come se scioglieste lo strato superficiale, è giusto dire così? Non completamente corretto, diciamo, è come se si ha un ammorbidimento, okay, generale dello strato superficiale. Perfetto. Quindi vari scalini che si livella un pochettino, no? Esatto. Come se fosse del cioccolato quando lo si riscalda un attimino. Esattamente. Ecco, benissimo. Ecco, c'è l'aspetto estetico, ma c'è anche, e questo è molto interessante, un aspetto di più di caratteristiche meccaniche come effetto, sì, collaterale, diciamo, oserei dire, di questo processo. Sì, anche se poi fondamentalmente è anche la parte più interessante. Diciamo che la nostra lavorazione superficiale porta con sé un aumento di funzionalità dell'oggetto, infatti diventa ovviamente più liscio e più gradevole al tatto e alla vista, ma diventa anche perfettamente impermeabile, a differenza degli oggetti che vengono realizzati con queste tecnologie, facilmente lavabile e disinfettabile, molto facilmente verniciabile, e soprattutto rende la superficie completamente omogenea. L'aumento di caratteristiche meccaniche è molto importante, perché sia a fronte di una riduzione della rugosità di oltre il 90%, quindi arriviamo a rugosità, sì, paragonabili allo stampaggio per iniezione plastico, sia un aumento della resistenza all'urto di oltre il 60%, perfetto, carico di rottura a flessione del 20%, certo. La durezza, ecco, proviamo a spiegarlo. Quando vogliamo rompere un vetro, che cosa facciamo? Lo righiamo, no? Gli facciamo una riga con una punta di diamante. Poi a quel punto basta quella piccola irregolarità per rendere più fragile il pezzo di vetro, che si spezza facilmente. Esatto. Quindi lisciare fa sì che non ci siano queste righine da cui può partire la rottura del pezzo, sostanzialmente. Esatto. Quindi diventa più resistente. Assolutamente sì. Questi punti siamo appunto punti di nucleazione di cricche e fratture, perché proprio è da lì che parte, perfetto, la rottura del manufatto. Chi si è mostrato più interessato a questa vostra innovazione, che ricordiamo può essere bene o male affiancata a qualunque stampante 3D? Certamente quelle con tecnologia a filamento, certo, fuso. A filamento fuso, certo. I più interessati sono stati ovviamente molti, in molteplici campi, ma soprattutto per quelli che hanno esigenza di creare piccoli lotti di produzione per i quali lo stampaggio o altre tecnologie tradizionali risultano estremamente costose. Oltre alle plastiche, è possibile immaginare di estendere questo processo ad altri materiali che non siano delle plastiche, dei polimeri? Allora, certezza in questo momento non c'è, però la nostra ricerca si sta indirizzando verso quella direzione. Quindi anche metalli? Ci proviamo. Ci provate. Va bene, allora in bocca al lupo a Rienti. Buonasera, grazie Crepi. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani. Buona serata a tutti. Audi è innovazione. Scopri i protagonisti e le loro idee su audiinnovativethinking.it.